F. Ascolta e controlla. All'esame per la patente di guida. Non avere paura. Ricordati bene di ogni manovra. Fai attenzione ai segnali stradali e non andare troppo veloce. Bene. Dimmi quando devo partire. Gira la chiave, metti in moto e preparati a partire.